Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Vi anticipo subito che questa puntata andrà in onda in edizione ridotta, ossia termineremo alle 18, perché dalle 18 alle 18.30 vi sarà uno speciale di Radio 24 dedicato all'attentato a Parigi, e poi aggiornamenti nel corso dei programmi, come stiamo facendo dalle 12.30 praticamente in poi, e uno speciale anche all'interno di Effetto Notte, oltre che aggiornamenti anche nel corso della Zanzara. Quindi chiaramente oggi il programma termina alle 18. Diciamo subito che va la nostra solidarietà e chiaramente a tutti i parigini per quanto è successo, non solo perché si tratta di giornalisti, ci mancherebbe, però quanto è accaduto, e poi parliamo di economia, la dice lunga anche su quanto alcune libertà, perché particolarmente vile, doppiamente vile questo attentato, intanto perché è rivolto a persone inermi e indifese, oltre che ai poliziotti parigini, ma anche perché va a colpire quella che è la satira. Allora lasciatemi dire, visto che molte volte si polemizza su tante cose, sull'eccesso di satira, che alcuni dei diritti che a noi sembrano scontati, che abbiamo ottenuto anche noi dopo secoli e secoli di lotte, non sono scontati per altre culture. Nessuno vuole criminalizzare la cultura islamica, ma è inutile girarci attorno. Quanto è accaduto è anche il prodotto di una esasperazione, degenerazione, di un mondo che non ha mai, nemmeno lontanamente, cercato di mettersi al passo con la modernità, e quindi accettare che l'ironia, lo sfottò, la satira facciano parte delle libertà che il mondo occidentale ha ottenuto a fatica e con lotte da tempo. Punto e basta. Poi ognuno fa qualunque ragionamento vuole. Sappiamo tutti che c'è la stragrande maggioranza del mondo islamico è moderata, quello che volete, però queste frange estreme e chiaramente patologiche e chiaramente degenerate stanno però a dimostrare che in una certa cultura l'idea che la satira sia uno degli elementi di espressione, così come il giornalismo in generale, e le libertà individuali di uomini e donne siano elementi di espressione acquisiti in una società civile, è un'idea che non è ancora penetrata. Non a caso si va a colpire il simbolo francese, uno dei simboli europei del diritto di satira e del diritto anche di essere ogni tanto dissacranti senza voler offendere nessuno per motivi religiosi. Allora, ripeto, speciale alle ore 18, giornata molto convulsa come immaginate. Il fronte economico in realtà teneva banco fino alle 12, ahimè, per due motivi forti. Il primo si chiama disoccupazione, ossia c'è un nuovo dato, il dato di novembre sulla disoccupazione in Italia, ahimè è record storico al 13,4%, il tasso più alto da quando misuriamo la disoccupazione dal 1977, e la cosa tra virgolette interessante è che sempre oggi è uscito il dato sulla disoccupazione tedesca, il tasso è al minimo storico, e quindi ci sono due mondi in questo momento da un punto di vista economico, Germania e Italia, ma direi Germania e parte del resto d'Europa. Disoccupazione al minimo storico al 6,5%. A dicembre il numero di disoccupati in Germania è calato ulteriormente di 27.000 unità. Questo nel giorno in cui continuano le ipotesi, non so quanto artatamente, ma portate avanti dalla stampa tedesca, di una Germania che sarebbe pronta a una Grexit, a un'uscita della Grecia dall'euro nel caso dovesse vincere Tsipras e la coalizione a guida Tsipras bloccasse le riforme, non verrebbero versati 10 miliardi da Atene. Abbiamo già chiarito ieri, ma ne riparleremo, che fa parte anche di una tattica, di una trattativa per arrivare di un braccio di ferro in cui però difficilmente è immaginabile che si voglia arrivare allo scontro finale con tra Atene e Bruxelles, e quindi questo fa parte anche della pretattica, anche inutile girarci attorno, per influenzare un po' l'elettorato greco e fare capire i rischi che vi sarebbero nel caso di una vittoria di Tsipras. E quindi il fronte greco da una parte e il fronte italiano e della disoccupazione dall'altra, e nel giorno in cui l'inflazione invece, questo era più in qualche modo atteso, l'inflazione nell'area euro a 18 non solo scompare, ma si va direttamente in deflazione, nel senso che i prezzi sono calati dello 0,2%, il livello più basso da settembre 2009, ma la cosa interessante è la prima volta da 5 anni che c'è segno meno in tutta l'area euro sui prezzi. La Commissione europea giustamente fa notare che questi dati negativi sono diversi da una deflazione permanente ad ampio raggio di prodotti. Questi dati sono condizionati dal crollo del prezzo del petrolio. È vero, il prezzo del petrolio ha perso quasi il 50% da settembre e anche oggi di nuovo in calo. E quando cala il prezzo del petrolio non solo calano i prezzi diretti, cioè benzina e gasolio, ma calano anche i prezzi di tutte le merci trasportate attraverso benzina e gasolio, quindi dall'autotrasporto. E la Commissione europea dice: beh, questa è un'inflazione negativa dovuta al prezzo del petrolio. È corretto, temporanea, lo dice la Commissione europea. Noi non sappiamo quanto il prezzo del petrolio resterà basso per i prossimi mesi, però la Commissione europea, se non vuole essere così, se non vuole sembrare speciosa, deve anche aggiungere: questi prezzi bassi del petrolio che hanno prodotto la deflazione vanno a sommarsi a un'inflazione già pari a zero sostanzialmente in Europa, perché se tu avessi dei consumi sani e quindi non da recessione in Italia, in Francia, in Spagna, probabilmente il prezzo del petrolio avrebbe fatto calare l'inflazione, ma non l'avrebbe portata in deflazione. Per cui diciamola tutta, i prezzi dell'energia sono in calo e anche dei beni trasportati sono in calo, perché costa meno trasportarli, ma questo va a sommarsi a una situazione di consumi piatti, se non in calo, e di prezzi vicini, di crescita dei prezzi vicini allo zero, con il risultato che si va in deflazione, se no non basterebbe petrolio per portare in deflazione. Quindi la Commissione europea sembra quasi, non so, fare un po' il pompiere per nulla, perché è meglio prendere atto che c'è un'intera parte dell'area euro in cui la recessione ha prodotto consumi inesistenti, consumi in calo e prezzi in calo. Le borse oggi, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Le borse, dicevo, per quello che riguarda Milano più 0,13%, Parigi più 0,55%, Francoforte più 0,33%, Londra più 1,1% e l'America guadagna lo 0,50%, euro sotto quota 1,19%, vicino a quota 1,17%, nel senso che siamo a 1,18,1 sul dollaro. Tra i titoli, bene, Buzzi Unicem più 3,5, Salvatore Ferragamo più 2,80, Atlantia più 2,70, Luxottica più 2,20, ST Microelectronics più 2, Finmeccanica più 1,60, TOZ più 1% come Exor e Fiat Chrysler. Fronte opposto invece sui titoli, Yux perde 4,90%, Saipem il 2,35, ancora per quello che riguarda i titoli, UbiBanca meno 1,80, Pop Emilia Romagna meno 1,70, Tenaris meno 1,60, Mediolanum meno 1,1, Prismian meno 1% come Intesa San Paolo. Rapidamente le altre notizie in breve. Guardate, lo dico a molti ascoltatori, non farò la puntata, c'è lo speciale di Radio 24 alle 18 che farà il punto di quello che sta capitando a Parigi, dove chiaramente vengono messe in sicurezza non solo le ambasciate ma anche i luoghi dei media e dei giornali. C'è una manifestazione in Place de la République alle 19, però per favore non buttiamola in cacciara. Quindi il problema non è prendersela con la comunità islamica, però bisogna anche riconoscere, poi la chiudiamo su questo tema, che qualcuno ci ricorda il terrorismo a casa nostra, se si può fare un esempio, diciamo, forse un po' pindarico. Allora, c'era un humus, un substrato che non dico giustificasse, ma in qualche modo comprendesse i fratelli che sbagliano. Allora, delle volte l'Islam dà la sensazione di dire che sono fratelli che sbagliano, ma diciamo è allo stesso tempo molto irritato quando la satira prende di vista Maometto, mentre noi siamo abituati che la satira possa prendere di vista il Papa senza arrivare all'offesa, alla querela e al dileggio, però il Papa, la Chiesa Cattolica, il mondo dei preti, siamo abituati a tutto. Allora questa è una diversa concezione della libertà, punto e basta. Qui non è un problema di religione, è un problema di libertà, di democrazia e di autoritarismo, di fascismo, punto. Fascismo islamico, chiamatelo come volete. È un lungo percorso accettare che i diritti degli individui, uomini e donne, siano uguali. Noi ci abbiamo messo qualche secolo, anche noi avevamo la religione che remava contro. Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, oggi ho una voglia di occuparmi dei tedeschi, però insomma tocca farlo perché, come vedremo, anche oggi un altro quotidiano tedesco spinge per l'ipotesi, o meglio dice che sostanzialmente la Germania è già pronta all'ipotesi di far uscire la Grecia dall'euro. Rapidamente veniamo invece alla disoccupazione. Allora, se in Germania è al minimo storico, in Italia va al 13,4%, il tasso più alto dal 1977. I disoccupati a novembre sono 3.457.000, 40.000 in più rispetto a ottobre, 264.000 in più rispetto a un anno prima, a significare che l'inversione di rotta, lo sappiamo che anche quando ripartisse l'economia ci vorrà del tempo, l'abbiamo spiegato molte volte, la cinghia di trasmissione è lunga tra quando riparte l'economia e quando le aziende tornano ad assumere, perché prima vai a pieno regime con gli occupati che hai, magari richiami qualcuno dai contratti di solidarietà e dalla cassa integrazione, poi torni ad assumere veramente. Però il dato è comunque brutto, comunque lo si giri, anche gli occupati sono in calo, mentre avevamo visto ad ottobre un dato in cui gli occupati aumentavano, cioè gli occupati sono tutti quelli che lavorano, compresi quelli che non lo stanno cercando, quindi tutti quelli che lavorano sul totale della popolazione che potrebbe lavorare. I disoccupati invece vanno a misurare solo quelli che non lavorano tra quelli che vorrebbero lavorare. Sono due cose diverse, perché tra gli occupati si va a vedere anche chi non lavora ma magari non vuole lavorare perché preferisce stare a casa, ritiene più conveniente stare a casa o quant'altro. Allora, anche gli occupati sono in calo, meno 48.000 in un solo mese, a significare che novembre è stato un mese terribile sul fronte dell'occupazione. Gli inattivi sono in calo, oltre 300.000 in meno. La disoccupazione dei giovani, ma questo ormai purtroppo lo sappiamo, è di nuovo a record, mai così alta, il 43,9%. So benissimo che alcuni stanno ancora studiando, però ragazzi, il raffronto si fa con il dato con le serie storiche dal 1977, per cui al di là della cifra assoluta, cioè quanti di questi sotto i 25 anni siano veramente disoccupati o siano invece ragazzi che hanno appena finito gli studi o stanno cercando di fare un corso di aggiornamento, in realtà 729.000 ragazzi sotto i 25 anni senza lavoro in Italia non si erano mai avuti da quando misuriamo le serie storiche. I giovani disoccupati sono aumentati di 63.000 in un anno. Il dato è particolarmente brutto, ripeto, perché aumenta la disoccupazione, quindi aumenta chi non lavora tra chi lo sta cercando un lavoro, e diminuisce l'occupazione, cioè il numero di occupati totali su tutta la popolazione che potrebbe lavorare. Lo dico perché poi giustamente il governo, per voce del Presidente del Consiglio Renzi, del Ministro dell'Economia Padoan, dicono che le nuove misure si vedranno nel tempo, è logico e fisiologico che sia necessario attendere ancora. Sì e no, caro Presidente del Consiglio, caro Ministro dell'Economia. Sì, nel senso che qualunque misura, l'abbiamo appena detto, anche se ripartisse l'economia, che non è ancora ripartita, come segno più sul PIL, ci vorrebbe del tempo perché tornasse ad aumentare l'occupazione e a diminuire la disoccupazione. No, perché magari poteva restare invariata, invece il dato di novembre segnala un netto peggioramento, e questo va detto, rispetto ad ottobre. Per cui è vero che non si possono attendere adesso gli effetti ancora sui disoccupati, ma è anche vero che ci si poteva augurare almeno un non peggioramento del dato, che invece c'è stato in maniera anche significativa. E aggiunge il ministro Poletti, a mio avviso in maniera un po' audace, solo nei prossimi mesi si potranno vedere gli effetti delle misure della legge di stabilità e della riforma del mercato del lavoro. Quanto al famoso decreto fiscale, la manina negata, la manina del 3%. Comunque, oggi sia il ministro Padoan che il Presidente del Consiglio Renzi hanno detto che il testo arriverà in Consiglio dei Ministri il prossimo 20 febbraio. Sarà modificato, sarà molto più ricco e molto più ampio. La battuta viene ovvia, speriamo che sia modificato prima di arrivare al Consiglio dei Ministri e non dopo, come sembra che sia successo, e speriamo che l'autore delle modifiche si firmi, cioè che sia sempre riconducibile a un soggetto politico chi opera delle modifiche, perché il balletto di chi è stato a introdurre il 3% come limite sulla non punibilità penale in caso di evasione è stato un balletto obiettivamente sconcertante. Allora, Salvatore Padula nei 100 secondi Radio 24 con RDS, vice direttore del Sole 24 Ore, commenta oggi proprio i dati sul record di disoccupazione e record anche di disoccupazione giovanile. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È un'altra giornata pesante sul fronte dei dati economici. Oggi siamo letteralmente sommersi da numeri e percentuali dell'Istat su occupati, inoccupati, attivi. Proviamo a capire che cosa realmente dicono queste cifre. Il tasso di disoccupazione, che indica le persone che stanno effettivamente cercando un lavoro, a novembre sale ancora, è salito ancora, ha raggiunto il 13,4%, è il valore più alto da 37 anni a questa parte. Tra i giovani fino a 24 anni il tasso di disoccupazione è salito al 43,9%, vuol dire che ci sono circa 730.000 under 25 in cerca di occupazione, ma è il numero degli occupati, delle persone occupate, che crea ancor più allarme, e questo perché il tasso di disoccupazione può aumentare in quanto aumentano le persone che si mettono effettivamente a cercare lavoro, magari perché hanno più fiducia di poterne trovare uno. Il numero degli occupati invece indica i nuovi posti di lavoro che ogni mese vengono creati, oppure quelli che si perdono. Bene, a novembre ci sono stati 48.000 occupati in meno, 48.000 posti di lavoro svaniti nel nulla. In due mesi, ottobre e novembre, sono stati persi oltre 100.000 posti di lavoro, il che praticamente azzera quel beneficio che si era creato dopo il del decreto Poletti la scorsa estate. Allora, bastano queste cifre per capire quanto la disoccupazione resti la nostra principale emergenza. Ora avremo il Jobs Act, avremo forse una boccata d'ossigeno grazie agli sgravi previsti per le aziende che assumano, ma è chiaro che senza misure per lo sviluppo, senza ripresa dei consumi e senza ripresa degli investimenti, il mercato del lavoro non riuscirà a uscire da questa crisi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Vedo molti messaggi sull'inflazione. Sì, anche in Italia l'inflazione è rimasta a zero a dicembre. La media del 2014 in Italia ha visto un'inflazione dello 0,2%, cioè i prezzi complessivamente sono cresciuti dello 0,2%, è il livello più basso di inflazione del 1959. Ora, abbiamo spiegato più volte che giustamente la Banca Centrale Europea ritiene un'inflazione ottimale intorno al 2%, perché è male avere troppa inflazione, va a erodere i salari, e lo sappiamo tutti, ma è un male anche avere la deflazione, perché aumenta il valore reale di chi ha un debito e soprattutto spinge a ritardare gli acquisti, perché se ti aspetti i prezzi in calo, anche se devi acquistare, tende a ritardare gli acquisti. Ecco perché fa paura la deflazione tanto quanto l'inflazione alta. Siamo al minimo dal 1959. Anche il cosiddetto carrello della spesa a dicembre è a meno 0,2%, è l'andamento dei prezzi dei generi più utilizzati, in primo luogo quelli alimentari, ma non solo, anche i beni per la casa, meno 0,2%. Comunque non capitava dal 1959, quindi abbiamo perso, come dei prezzi, mezzo secolo, che l'inflazione in media in un anno, non in un mese, ma nel 2014 fosse lo 0,2%. e questo per quello che riguarda l'inflazione. Sulla disoccupazione sentiamo invece quanto ha detto questa mattina da Giovanni Minoli qui a Radio 24, a Mix 24, il neo segretario generale della CISL Anna Maria Furlan, parlando anche del mancato rinnovo del contratto, che ha definito un brutto esempio per i privati. Anni e anni di chiusura dei tavoli contrattuali, nel senso che 6 anni che non si rinnova il contratto per i lavoratori e le lavoratrici pubbliche, ma anche mancanza di confronto spesso negli enti locali, nei comuni, nelle regioni, non determinano certamente un clima di dialogo e di confronto vero. Dottoressa Furlan, ce l'ha col ministro Madia? Ma guardi, non ce l'ho con nessuno. Dopo 6 anni che non si rinnova il contratto pubblico, credo che non ci sia un solo ministro o un solo governo che in questi 6 anni, e ne abbiamo cambiati tanti nel nostro paese, abbia svolto il proprio dovere come Stato datore di lavoro. Un gran brutto esempio che si dà anche ai privati. Allora, due risposte brevissime da alcuni messaggi. Nessuno qui ha detto che l'occupazione la deve creare il governo. Ho solo detto che hanno ragione il ministro Padoan e il presidente Consiglio Renzi a dire che gli effetti delle riforme, anche il ministro Poletti, arriveranno più tardi. Ma devono far notare che questa volta rispetto a ottobre il dato è particolarmente negativo, perché oltre che aumentare la disoccupazione cala anche l'occupazione, mentre a ottobre avevamo avuto un aumento dell'occupazione. Quindi va detta tutta la verità, nessuno si aspetta che l'occupazione cresca per un decreto legge o per una riforma del mercato del lavoro. Un'altra risposta la devo dare, perché chiaramente alcuni scrivono anche sull'attentato di Parigi, ripeto, non è oggetto di questo programma, alle 18 c'è lo speciale, però gliela do come risposta da vice direttore di questa radio. Allora, quando un ascoltatore mi scrive Andrea da Livorno, quello che è stato fatto a Parigi non è qualificabile, ma anche disegnare o pubblicare Maometto in atteggiamenti osceni è da teste di... No, non ci siamo, perché vede che torniamo ai compagni che sbagliano o ai fratelli musulmani che sbagliano. No, se uno ritiene che sia inqualificabile, che sia offensivo la satira, un disegno, ha tutti gli strumenti democratici per portare in tribunale, lo fanno con noi, no? Allora, per portare in tribunale l'autore di questi disegni e farlo condannare laddove fosse stata offesa la dignità dal punto di vista religioso. Questo è quello che si fa nelle democrazie, no? Iniziare a linciare mediaticamente e poi, ahimè, anche fisicamente è tipico delle dittature, del fascismo, e questo atteggiamento islamico è un atteggiamento fascista, non è un problema di cristianesimo e religione islamica. Qualcuno si lega Berman dopo l'11 settembre del 2001, è una lotta tra la democrazia, cioè la libertà, e poi vieni anche condannato se offendi nella democrazia, non è che puoi dire quello che vuoi, e autoritarismo, ok? Obbligare il velo è fascismo, decidere che puoi girare col velo o no è democrazia, ok? Quindi niente, non me ne frega nulla se le vignette di Maometto fossero particolarmente offensive, esistono i tribunali per questo, no? Non hai capito, le querele bisogna farle solo a Radio 24, allora uno fa questo, non è che si mette a linciare mediaticamente sui siti, no, le persone perché hanno fatto una vignetta e poi in qualche modo si generano i compagni che sbagliano, come si chiamavano i terroristi in certa sinistra negli anni 70 e adesso qua li chiamiamo i fratelli che sbagliano. Ok. Sì, ma siamo d'accordo che debbono adeguarsi alle leggi dello Stato. Comunque, professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera. Buonasera. Puntata un po' difficile oggi, nel senso che dobbiamo alternare diverse notizie. Allora, mi dica una cosa, abbiamo un dato sulla disoccupazione che è quello che ricordavamo, una deflazione, che mai l'inflazione è stata così bassa dal 1959 in Italia, il tutto mentre in Germania, lo dico con un po' di invidia, ma se lo sono meritato questo, la disoccupazione è al minimo storico, dato di oggi al 6,5%, a dicembre sono anche calati di 27.000 germani disoccupati, e nel giorno in cui di nuovo la stampa tedesca torna a parlare, questa volta non è più Spiegel ma è la Bild, che dice Berlino sta preparando le strategie nel caso che Tsipras voglia bloccare le riforme, dovesse vincere Tsipras e fare la coalizione lui, non verrebbero versati 10 miliardi di euro di aiuti previsti e la Germania si sta preparando alla Grexit. Allora, fermo restando che non è la Germania che decide, lo devono capire anche i tedeschi. Poi subito il portavoce di Angela Merkel ha detto: no, attenzione, noi vogliamo rafforzare l'eurozona con Atene. Come si tengono assieme tutte queste cose? Ma forse non si tengono assieme. L'impressione generale che uno ricava da questo, dagli andamenti delle borse, dal prezzo del petrolio, eccetera, è di varie piccole strategie locali che ciascuno fa, senza tener conto degli altri, e alla fine si trova un'enorme confusione e senza alcun disegno preciso. Purtroppo c'è un riferimento storico molto chiaro a questo, anche se siamo su un ambito diverso. Allora si parlava di guerre e qui si parla di guerre economiche, se vogliamo, che è la prima guerra mondiale. Tutti pensavano di risolvere tutto con una piccola azione verso un confinante ed è venuto fuori una conflagrazione generale. Qui abbiamo un mondo in cui non c'è nessuno nella cabina di regia. Mondo europeo. Ma mondo europeo, ma direi anche buona parte del Medio Oriente, Africa, eccetera, non è solo una questione nostra interna, siamo immersi in un mondo in cui fino a 5-10 anni fa si poteva sostenere che gli Stati Uniti avevano comunque un ruolo direttivo, oggi questo ruolo risulta come minimo molto appannato. Però poi restiamo, diciamo, al dato di carattere europeo. Ho capito cosa dice lei, facendo un esempio che chiaramente è volutamente forzato. Anche la prima guerra mondiale scoppiò perché c'era da risolvere una piccola questione in Serbia, o meglio l'attentato. Mentre la seconda guerra mondiale scoppiò, diciamo, era impossibile evitarla, lei sta dicendo che la prima guerra mondiale nacque come all'inizio una piccola ostilità per poi deflagrare nel più grande conflitto che l'umanità aveva fino allora visto. Venendo invece e uscendo dall'esempio, secondo lei perché la Germania sta, per me è tre giorni, continuano a uscire dalla stampa tedesca indiscrezioni sul governo di Berlino nei confronti del governo di Atene, poi smentite ufficialmente dal portavoce della Merkel ogni volta? È una tattica, cioè uno fa il poliziotto buono, il portavoce della Merkel, poi la stampa tedesca viene imbeccata di fatto svolge il ruolo del poliziotto cattivo, in modo da far capire ad Atene quali sarebbero i rischi, cercare anche di condizionare un po' il voto elettorale, fare in modo che Tsipras non stravinca per poi arrivare a una trattativa dopo il 25 gennaio, o secondo lei la Germania pensa seriamente eventualmente di poter arrivare allo scontro con la Grecia e all'uscita della Grecia? Ma guardi, io penso di più, penso che nella dirigenza tedesca ci sia una profonda divisione tra una componente che era tradizionalmente dominante, che era quella pro-europea, cioè in fondo la Germania del dopoguerra si è costruita sulla collaborazione con la Francia, eccetera. E una seconda componente che è venuta affermandosi negli ultimi 10-15 anni, affermandosi ma non è dominante, insomma, però ha voce in capitolo, che vedrebbe di buon occhio la partizione dell'Europa, cioè la Germania e alcuni paesi nordici si ritrovano in un'alleanza continentale con Russia e Cina, e non a caso sono stati fatti oleodotti e ferrovie in questa situazione, e gli altri possono anche andare per conto loro. Qui vorrei segnalare un articolo di settembre su Die Welt, quindi non è l'ultimo giornale tedesco, il principale settimana tedesco, certo. Era un editoriale che diceva: l'Italia farebbe bene a uscire dall'euro. E ci veniva dato il consiglio di uscire dall'euro perché saremmo stati facilitati su molte cose, eccetera, eccetera. Quindi questo mi fa pensare che ci sia un sottofondo di, non lo chiamerei neanche anti-europeismo, quanto a-europeismo, cioè assenza di europeismo, superamento dell'europeismo da parte di una Germania che pensa di poter governare un'alleanza con la Cina sostanzialmente, ma passando per la Russia. In tutto questo, il fatto che, adesso magari mi risponde dopo il meteo, il fatto che la Germania comunque abbia ancora quasi metà del suo export nei confronti dell'euro non conta, cioè nel senso che se la Germania si tenesse l'euro e i paesi diciamo, dell'Europa del Sud dovessero uscire, dovessero avere l'euro di serie B, torniamo all'ipotesi dell'euro di serie B, è chiaro che la Germania avrebbe grossissime difficoltà ad esportare. Cioè, questo non spaventa i tedeschi, il fatto che loro comunque siano perfettamente integrati nel mercato europeo? In diretta, allora, professor De Aglio, veramente la Germania può credere realisticamente a un'ipotesi in cui si allea con qualche paese del nord Europa, usa come interlocutore privilegiato nel continente la Russia e guarda alla Cina come principale partner nell'export, pur essendo così integrata come economia nell'area euro? E quindi, Io penso che il ragionamento dei tedeschi sia che sicuramente una crisi congiunturale ce l'avranno, quindi venderanno meno Mercedes e meno BMW, ma che quello che sta diventando il nucleo duro delle esportazioni tedesche, cioè elettronica applicata alla meccanica, la meccatronica famosa, insomma, degli impianti industriali, più l'industria chimica, più altre cose di questo tipo, ce la farebbero perché sostituirebbero la domanda europea con una domanda russo-cinese, poi vuol dire gran parte dell'Asia. Insomma. Non dico che abbiano ragione, dico semplicemente che ritengo che esista nella leadership tedesca una corrente, per ora minoritaria, ma che si fa sentire in queste maniere indirette, che vorrebbe questo tipo di evoluzione per la Germania. Allora, vedo molti ascoltatori che fanno diverse domande su questo. Sì, ha ragione chi dice, guardate che probabilmente l'effetto del Jobs Act nella parte che si ritiene più positiva per le assunzioni e quindi la decontribuzione, molti, chi voleva assumere ha aspettato gennaio, però attenzione che il dato, aspetta gennaio o febbraio, il dato è di novembre, ora non era ancora chiaro quando la legge sarebbe entrata in funzione e nelle sue caratteristiche, quindi sì e no, temo che il dato sulla disoccupazione sia un dato sulla disoccupazione dovuto ancora a una coda velenosa dell'economia negli ultimi mesi dell'anno. Ultima domanda, professor De Aglio, questo è lo scenario, diciamo, che nessuno si augura obiettivamente, perché sarebbe la fine dell'Europa, non tanto dell'euro, però nel brevissimo termine, secondo lei ci può essere invece un po' di tattica anche della Commissione Europea, cioè di fare la faccia feroce, come dicono a Napoli, per poi arrivare a un accordo, perché non è interesse di nessuno che ci sia un precedente storico? Voglio dire, la Germania ha ancora 62 miliardi di esposizione verso la Grecia, la Francia 48, l'Italia 40, la Spagna 28, però è proprio il fatto che sarebbe un precedente da cui poi sarebbe difficile immaginare le conseguenze, tutta la concatenazione di conseguenze. Questa tendenza sicuramente c'è. C'è anche da dire che sul totale degli impieghi bancari di questi paesi l'esposizione verso la Grecia è un tipo di perdita che si può assorbire senza troppa difficoltà se spalmata su qualche anno, come farebbe qualunque banchiere che ha un cliente che poi va a rotoli. Insomma, questo non è di portata strategica ormai. Ecco, questo va chiarito, quindi tutto il discorso sulla Grecia può essere una specie di fumo su questi discorsi di termini più lunghi in cui il vero futuro è cosa farà la Germania e cosa farà la Francia. Sì, tra l'altro oggi, prima che arrivasse la notizia dell'attentato, la notizia che riguardava la Francia era di un governo francese intenzionato a chiedere più tempo alla Commissione Europea perché i conti non stanno tornando, i conti del deficit mi riferisco. Ultima vera domanda, il dato di oggi sull'euro invece, perché adesso l'euro, sto guardando le agenzie, l'euro è sceso ai minimi da, se ho ben visto, 8 anni a questa parte, per quello che riguarda quota, guardami, non 8 anni... 8 anni a questa parte, ecco, sono ripreso l'agenzia, a 1,18 euro sul dollaro. Il petrolio ha preso di nuovo un calo oggi, ha perso quasi il 50% da settembre. Questi potrebbero essere degli elementi, qui lo chiedo al macroeconomista, positivi per il nostro paese e anche per altre economie dell'area euro, con un po' più di ripresa per il 2015. Il Centro Studi Confindustria la quantificava uno 0,3% sul PIL quest'anno e uno 0,5% l'anno prossimo. Ma certamente, io sono convinto che in questo momento nei loro uffici ci sono decine e decine di imprese che stanno brindando perché il dollaro sale e quindi loro incasseranno di più in dollari. C'è il pericolo che il paese dovesse pagare di più per il petrolio, ma ci hanno pensato i sauditi a dimezzare il prezzo, quindi abbiamo dall'esterno per una volta uno stimolo di domanda e un'offerta a buon mercato. Quindi se non siamo capaci a prendere queste occasioni, allora veramente siamo finiti. Grazie, almeno questo ci avvantaggerà. Euro debole che aumenta le nostre esportazioni, permette di incassare di più in chi vende nel mercato dollari. Petrolio basso che quindi annulla l'effetto che avremmo avuto da un dollaro forte sui prezzi del greggio, a parte che con questa deflazione potevamo anche permetterci, ma meglio avere in questo caso il petrolio basso, così non abbiamo l'inflazione importata, per cui quell'inflazione che è dovuta non al fatto che un paese cresce in maniera sana e i prezzi un po' salgono perché tutti guadagnano di più, ma l'inflazione importata è quella che arriva solo perché crescono i prezzi del petrolio e dei suoi derivati. Grazie a Mario De Aglio. Allora la borsa adesso meno 0,11%, Milano, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 0,50%, scusate, più 0,70%, Francoforte più 0,50% e Londra più 0,70%. L'America più 0,70% in questo momento, euro dicevamo a quota 1,18 e 14. Ancora sull'attentato, vabbè, tanto oggi giustamente va così. Alcuni criticano il fatto che abbia detto fascismo, lo chiamano autoritarismo religioso, va bene, dittatura religiosa, va bene, non chiamiamolo fascismo, non chiamiamolo nazismo, non chiamiamolo comunismo, era solo per dire che qui lo scontro è tra democrazia e libertà e sostanzialmente autoritarismo, totalitarismo religioso, chiamiamolo totalitarismo religioso, questo è lo scontro, non è lo scontro con l'Islam che non c'entra nulla, o lo scontro tra le religioni. Anche noi abbiamo avuto secoli in cui la religione cattolica era di carattere totalitario, se qualcuno ricorda la Santa Inquisizione. Ok? Allora, qui è lo scontro tra libertà, e quindi democrazia, e totalitarismo, e quindi assenza di libertà e imposizioni. Punto e basta. Inutile menarla sulla religione, la crociata, le non crociate. Sono tutte cavolate. Fine. Allora la borsa oggi dicevamo poco mossa, Milano meno 0,11% nel finale, invece più 0,70 Parigi, più 0,50 Francoforte e Londra più 0,70. Che cosa ha frenato Milano? UX meno 5,20, ma anche Saipem meno 2,50, Intesa San Paolo meno 1,20, UbiBank meno 2, Popolare Emilia Romagna meno 2,25%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Molto bene oggi il settore cemento invece, a partire da Buzzi Unicem più 3%, bene anche abbiamo visto Italcementi, Ferragamo guadagna il 2,70%, Atlantia Autostrade il 2,40%, ST Microelectronics più 2%, Luxottica più 2%, Finmeccanica più 1,5%, Moncler più 1%, Campari più 1%, Fiat Chrysler più 0,90%, Exor la controllante più 0,70%, Enel più 0,6%, Eni più 0,5%, quindi cemento e lusso. Sì, per quanto riguarda il cemento oggi si tratta più che altro di un rimbalzo dopo per la verità un mese di dicembre piuttosto volatile per questo settore, soprattutto per le prospettive economiche di crescita in peggioramento, ma c'è da dire che alcuni operatori stanno anche un po' rivedendo questo settore, riscoprendolo, e oggi ha fatto bene Buzzi, ha fatto bene Cementira, ha fatto bene Italcementi, anche perché è uno di quei settori energivori che con le previsioni di un petrolio costantemente basso per il 2015 dovrebbe avere dei benefici nell'attività caratteristica. Per quanto riguarda il lusso, stiamo vedendo una forte riscoperta di questo settore legato chiaramente all'andamento dell'euro dollaro, quindi soprattutto quei gruppi più esposti verso gli Stati Uniti ne stanno beneficiando. Nei giorni scorsi Luxottica aveva aggiornato i massimi sopra 46 euro, poi ha corretto, è tornata a mettersi in evidenza oggi, ma sono andate bene anche Ferragamo e anche Moncler. Si sta comportando invece in controtendenza, già tu lo segnalavi, Jux, che ha infilato oggi la quinta seduta consecutiva di correzione, quindi c'è un po' di turbolenza su questo titolo, pur in assenza di indicazioni specifiche per quanto riguarda l'attività che siano negative o che possano impattare in questo momento sul titolo. Fiat sente ancora delle vendite in Brasile oggi e quelle di Jeep nel 2014. Abbiamo visto Mediolanum invece, perché oggi Fininvest ha impugnato la decisione della Banca d'Italia che obbligava Fininvest stessa a cedere la quota di Mediolanum. Sì, esattamente. Mediolanum oggi ha vissuto un pomeriggio soprattutto di incertezza, questo l'ha portata a perdere l'1%, questa mossa a sorpresa, inaspettata, mentre il mercato stava cercando di capire come Fininvest avrebbe risposto, probabilmente con la costituzione di un trust, quindi l'affidamento ad una fiduciaria della parte di Mediolanum che la Banca d'Italia ha chiesto di vendere. Ricordiamo che la Banca d'Italia ha chiesto vendere tutte le quote eccedenti il 9,9%, quindi Fininvest è titolare di circa un 31% di Mediolanum, e invece Fininvest ha annunciato un atto di impugnazione di questo provvedimento, provvedimento che era legato alla condanna di Silvio Berlusconi avvenuta lo scorso anno per il processo dei diritti Mediaset, e questa impugnazione ha alimentato l'incertezza sul titolo, e quindi in attesa di precisazione di novità ne ha risentito Mediolanum, che ha perso oltre l'1%. Ancora al palo Snam e Terna invece oggi le abbiamo viste deboli. Per quello che riguarda Snam e Terna dovranno rivedere col governo i rimborsi, no? Per le tariffe sulle forniture. Sì, il 2015 sarà un anno importante, perché bisognerà appunto ricalcolare con il governo, con l'autorità dell'energia, quelli che sono i ritorni previsti per le attività di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda Terna e per lo stoccaggio e la distribuzione del gas per quanto riguarda Snam. Questi ritorni, questi rimborsi sono legati e prendono come riferimento il rendimento dei titoli di Stato decennali, che chiaramente abbiamo visto in forte ribasso negli ultimi mesi, e quindi la prospettiva che con un'azione della BCE di acquisto di asset sovrani i rendimenti scendano ulteriormente, è chiaro che questi ritorni sono attesi al ribasso con effetti immediati sui titoli, anche perché questi sono titoli che distribuiscono dividendi importanti, i cosiddetti titoli da cassettisti. È chiaro che ne dovrebbero risentire secondo la maggior parte delle case di investimento, ed ecco che il mercato va ad alleggerire la posizione. Oggi Terna ha perso lo 0,5%, Snam è stata a lungo debole, poi ha chiuso in pareggio. Allora, i migliori e peggiori: primi sui motori più 4,90, e Cementir Holding più 4,90 anch'essa, SAT più 4%, peggiore SET Pagine Gialle meno 14,30, Microspore meno 9%, i grandi viaggi meno 5,60%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso parliamo del prezzo del petrolio, però c'è un messaggio che ci riporta all'inizio. Mi scrive un ascoltatore: ma lei vive in un paese in cui esiste il vilipendio al Presidente della Repubblica e pensa che sia libertà di espressione insultare le religioni? No, guardi, io non ho mai detto che sia libertà di espressione, che sia giusto insultare le religioni. Ho detto che in un paese democratico, in cui c'è il rispetto delle leggi democratiche, se tu insulti qualcuno o qualcuno si ritiene offeso da una tua dichiarazione, esiste la querela per diffamazione, per vilipendio nel caso del Presidente della Repubblica, cioè esistono gli strumenti democratici, i tribunali, poi uno viene condannato, paga civilmente, penalmente. Il problema è che in una cultura, in un substrato di cultura islamica, sembra di raccontare l'Europa ai tempi di Torquemada della Santa Inquisizione, cioè se tu offendi Dio devi essere ucciso, ok? Allora non giriamoci attorno, e nessuno ha detto che gli islamici siano tutti così, ma che ci sia una, così, un sottobosco, ricordavo quello del terrorismo, i compagni che sbagliano, eh no, assassini e basta, non compagni che sbagliano, qui i fratelli che sbagliano, no, c'è un'intolleranza di fondo, l'abbiamo avuto noi, quando gli stati si basano sulle religioni, diventano teocrazie, ma ce le ricordiamo noi, come era l'Italia, la Francia, ai tempi in cui si bruciavano gli eretici, qualcuno va in Corso Monforte, a ricordarsi perché si chiama Corso Monforte e le streghe e la stregoneria, l'eretico, quello che no, o quello che era blasfemo, ecco, c'è quell'atteggiamento lì, punto. Cosa c'entra la libertà di insultare le religioni? Se tu insulti, offendi qualcuno, vieni condannato, vai in processo e vieni condannato, ma non giriamoci attorno, su. Allora, anche il prezzo del Brent oggi scende sotto i $50 al barile, è per la prima volta dal maggio del 2009, quindi si era ancora nel pieno effetto del crack di Lehman Brothers e del crack della finanza. Il WTI, quello americano, è sceso fino a $47 al barile, sui mercati asiatici anche qui ai minimi dall'aprile del 2009, poi è leggermente risalito a New York. Il calo del prezzo del petrolio del 50%. Da settembre, come conseguenza dell'eccesso di offerta, debolezza della domanda e rafforzamento del dollaro, il calo della benzina di circa il 14% in Italia, da 1,77 euro in media a 1,57 euro, con punti minimi al nord dove si arriva a 1,47 euro, ed è più o meno corretto, perché se il prezzo complessivo del petrolio è calato del 50% e il petrolio incide per un terzo, più o meno ci siamo. Davide Tabarelli, nostro ospite da anni, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Grazie, buonasera. Allora Tabarelli, dove ci dia una previsione, almeno lei ce la dia, abbiamo avuto anche l'astrologa a darci le previsioni il 24 di dicembre. Allora, si arresterà che cosa? A $40-35 il barile? Ma direi 40. 40 e poi dopo probabile un rimbalzo, variabilità verso 50-60, ma io azzardo a scommettere un periodo di prezzi più bassi rispetto a quelli degli ultimi 5-6 anni. Tutti gli altri analisti abbiamo visto, li ho visti sti giorni facendo il confronto fra di noi, in particolare le grandi banche di investimento, sono per gli $80 già a fine anno di quest'anno. Perciò noi siamo sempre, come è sempre stato negli ultimi anni, più ribassisti, abbiamo sbagliato per 8 anni e adesso è un momento di prezzi bassi. L'unica cosa certa di certezza di questo mercato, va sempre fatta questa premessa, però ci sono vari elementi per ritenere che dopo un periodo di prezzi molto alti, che erano l'anomalia secondo me era questo $100, soglia verso cui, su cui hanno oscillato dal 2000, fine 2009 fino a pochi giorni fa, era questa l'anomalia, adesso siamo tornati a condizioni più normali. Quindi fino a $40 si può spingere il prezzo del petrolio, cioè quella è la soglia di resistenza che hanno deciso, che ha deciso l'Arabia Saudita? Ma guardi, l'Arabia Saudita non è che abbia capacità né voglia. Beh, insomma l'OPEC sì, però. Ma io ho sempre cercato di sminuire l'effettiva importanza dell'OPEC. L'Arabia Saudita è molto importante, ma l'OPEC un po' meno, è un'organizzazione di questi Petroleum Exporting Countries che è fatta di paesi molto molto diversi fra loro, che sono stati spesso in guerra fra di loro, anche si sono scannati, in particolare Iran e Iraq, ma tuttora Iran e Arabia Saudita sono molto contrapposti, secondo me è questa la vera causa della non azione dell'Arabia Saudita, perché c'è stato questo riavvicinamento dell'Iran paventato, ancora molto lontano, per cercare le sanzioni sul nucleare. Cioè l'Arabia Saudita non vuole fare spazio al ritorno dell'Iran, questa è la cosa più importante. Poi dopo c'è anche gli Stati Uniti, lo Shell. Ma sì, di questo abbiamo già parlato, anche il tentativo di rendere non più economico per gli americani produrre petrolio dallo Shell, lo Shell Oil. Grazie Davide Tabarelli, vedremo se 40 sarà la soglia del petrolio. Adesso vi lascio al nostro GR24 e allo speciale che sarà condotto da Narita D'Ambrosio su quanto è avvenuto a Parigi. Una risposta, due al volo le devo dare. Io non ho detto che non sia uno scontro di civiltà, ho detto non è uno scontro religioso, è uno scontro di civiltà, nel senso tra democrazie e autoritarismi religiosi. A chi mi dice che poi il cristianesimo non è mai stato... l'inquisizione non l'ha fatta il cristianesimo, no, l'ha fatta la Chiesa Cattolica, ed era la stessa logica, non potevi offendere, se no finivi sul rogo. Allora, mettiamo i puntini su lì, non è uno scontro di religione, è uno scontro di visione del mondo, tra visione democratica e liberale, in cui se offendi vieni condannato, vai a processo, ma con metodi democratici, e una visione illiberale, ossia totalitaria. Faccio notare che quando ci sono vignette, sfottò, anche pesanti, che vengono dal mondo islamico, nessun occidentale avrebbe in mente di prendere un mitra e andare a mitragliare. Ok? Adesso basta con oggi, una brutta giornata comunque per la democrazia e per la libertà. Vi lascio il nostro GR24, ci risentiamo domani. Comunque, un augurio di buona serata. Radio 24, la passione si sente.